headlights are on. Gennaio del 2024, ennesimo appuntamento per prove tecniche di trasmissione, adesso sino alle 22:30. Ricordiamo il sito della radio www.ondarossa.info, già parecchi connessi via internet a quanto leggo. Il telefono, lo storico 0649 1750. Il sito della radio, oltre alle preziose notizie, ci sono anche i numerosi modi per aderire alla nostra sottoscrizione, alla nostra, diciamo, sopravvivenza, vita che va avanti ormai dal 1977, quindi le modalità più classiche fino a quelle più elettroniche. Saluto Ernesto Panico Brusati di Panico da Palcoscenico, Tiziano Farinacci di Pi Greco, Lucia Cagliazza di Lupsi, Sara che ci sta ascoltando a Berlino, Anna qui a Roma. Federissima Maglia, Cabula Rasa, Cecilia Miradori di Pindar. Venusia Zozzetta Stramonio, Marco Milanesio di Disordine, Des De Carlo dagli Stati Uniti, from Boston, Margherita Montoneri. Un saluto anche a Mariano. Mara Lasi di Calitis che ci sta ascoltando dalla Sardegna. Like a Wick, la storica ambient sempre qui da Roma. Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante di Noise Cluster. Mario Lino Stancati, anche lui avremo nella nostra playlist per questa sera. Abbiamo salutata all'inizio Lucia Cagliazza, che da molti anni ormai conosciamo con il suo pseudonimo musicale dal nome Lupsi. Chitarre trattate e sonorità tra ambient, industrial, atmosfere spesso oniriche e a loro modo psichedeliche. E Blonde Stars, la sua ultima fatica che cominciamo a conoscere con il brano omonimo, Continuous Revelation e Heart Calling. Eccolo, finalmente è partito Lupsi da questo Blonde and Stars. Questo era l'ultimo lavoro per quanto riguarda Lupsi, vero nome Lucia Cagliazza, si chiama Blood and Stars. Il quadro armonico ci ha portato in una dimensione quasi metafisica, incursioni in campo kraut, in campo siderale, che mi ha traslato nei primissimi lavori dei Pink Floyd di Amalgam, per esempio, nelle parti più sperimentali. È da menzionare il lavoro preciso alla chitarra, trattata in varie maniere da Lucia Cagliazza. Intanto vado a salutare una new entry, che è Daniele Serra, che milita nei Calitis insieme a Mara Lasi, e che ci ascolteremo, ve lo dico sin da ora, lunedì prossimo in sede di Disorder alle 21:30. Calitis, un nuovo progetto proveniente dalla Sardegna. Buonasera a Luca Purum Nihil, Marco Mascia di Progetto Sonoro, anche lui dalla Sardegna, testimonianza di come da quelle parti c'è della musica eccellente. Ed Ernesto mi ricorda il portiere di notte di Liliana Cavani. Secondo lui la colonna sonora di allora ha delle somiglianze con queste sonorità. Sinceramente non mi ricordo, ma mi fido di Ernesto. Abbiamo in ascolto anche il fedelissimo Francesco Cornello in quel di Bergamo. Rimaniamo in Italia, lui è Marco Milanesio, da queste parti assai noto come fondatore e leader dei Disordine, progetto storico a partire dagli anni Ottanta, nonché anche produttore e assemblatore di suoni e di musiche anche per altri. Ebbene, lui ha ritirato fuori un suo vecchio lavoro del 1989 dal nome Musiche per Teatro, che, come recita il titolo stesso, sono delle colonne sonore di altrettanti lavori su palco. Musiche per Teatro potrete trovarlo nel profilo Bandcamp di Disordine. Varie atmosfere si vanno ad alternare, quelle più rarefatte a passaggi più laibachiani. Diviso idealmente in due parti, perché le due opere teatrali erano due. La prima era Marat Sade, e quindi Marat Sade 1, 2 e 3. siamo immersi dunque nel grande calderone delle colonne sonore. In questa circostanza musica per teatro, quindi colonne sonore per installazioni teatrali, esattamente Marat Assade e Red, a tutto sotto l'egida di Disordine, un vecchio lavoro del 1989, rimesso in digitale l'aprile dello scorso anno anche sul profilo Bandcamp di Disordine di Marco Milanesio. Qui viene tirato in ballo anche Lars von Trier come eventuale film da collocare questa colonna sonora. Marco Milanesio, Disordine, ha dimostrato in questi lunghi anni di essere un artista assolutamente eclettico e variabile in senso buono. Come detto, c'è molto di Laibach, ma anche di Tuxedo Moon, se vogliamo, in queste note. Andiamo avanti e facciamo un salto geografico assai lungo per finire in Indonesia, dove in maniera insospettabile esiste una scena industrial sperimentale in genere assai vasta e interessante. Uno dei nomi di punta è sicuramente Senyawa. Di loro ci ascolteremo due passaggi dal Alkiza, un lavoro uscito nel 2021. E potremmo apprezzare le incursioni tribali, le ossessioni anche elettroniche di questo duo veramente incredibile. Ci ascoltiamo Menuyu Muara e Istana. Come on. un vero e proprio tripudio etnico ritualistico, qualcosa di iniziatico, di sciamanico, che domina in tutte le tracce di questo Al-Kiza, un duo indonesiano, un album del 2021, una scena che vi invito a conoscere ancora meglio sfruttando le varie compilation di Raffaele Pezzella sulla Nesplay Sounds Group. E Sara Boy fa esercizi di norvegese, credo che sia ai limiti del alieno questa donna, tutta palestra e esercizi di norvegese con le cuffie, prove tecniche di trasmissione. Saluto anche Wurnus Island, gloriosissimo progetto industrial piemontese. E adesso altro saltone, torniamo in Europa, ma andiamo in Nord Europa, andiamo in Finlandia, andiamo da Ilpo Väisänen, ex Pansonic, che ha avuto una notevole carriera solista, compreso questo Piiri, che in fondo fondo non è che abbia stampato molti lavori, ma questo è molto interessante, si chiama GPU, che in realtà è una rivisitazione attraverso svariati mix di una traccia che comparsi in un altro EP in precedenza, e quindi ci ascoltiamo un mix dei Pan American della stessa GPU. Intanto si sono giunti Sera Capo Fontana, la vecchia conoscenza dei nostri spazi, Nicola Locci in quel della Sardegna, anche lui di Hexagonal e Stigmate. E questo GPU di Piri si è stato, come dire, causa di varie definizioni, delle più fantasiose per quanto riguarda questo suono molto pieno di scriccoli, di cigoli, di tracce, come dire, disidratate, ricostruite in qualche modo da quel geniaccio che porta il nome di Ilpo Väisänen, qui in arte Piiri. In questa circostanza GPU era remixata da Pan American. Anche lui ci terrà compagnia il prossimo mercoledì con altre follie contenute in questo mini album, compresa questa che sta andando sotto la mia voce. E torniamo in Italia con Mario Lino Stancati della scuderia Anespress Sounds Group di Raffaele Pezzella. Andiamo a sentirci ancora tre passaggi da questa compilation dal nome Revision, che ha la saggezza di riprendere vecchi brani sparsi qua e là in tantissime compilation, e quindi sono state opportunamente riunite in questa opera uscita lo scorso anno. Ascoltiamo, fermala. Voce sola e The Blasphemous Laboratory. Yeah.